www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio. Cioè, pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Sì. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich, che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. It is later than you. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli una nuova mezzanotte ha lasciato il posto alla precedente, Kappa e Drago pensano al picnic. Gli ovetti sodi almeno ci sono. Sì, ne abbiamo 6. Cos'è un picnic senza uova sode? Già, e soprattutto cos'è un picnic senza uova sode qui nella fabbrica di polli? Sì, di quello che vuoi, però siamo fortunati ad avere questa comodità delle uova calde appena sfornate qui a disposizione. Beh, sfornate non direi, non escono mica dal forno, eh. Uova due. No, ma queste uova sode? Pollo, picnic uguale uova sode, che problemi ci sono? E come che problemi ci sono? No, io ho appena finito la mia giornata episcopale nella batteria, no? Quella dell'ovaiole. E tra quelle uova sicuramente ce ne sarà una sangue del mio sangue. Ma che sangue del tuo sangue? Albume del tuo albume, vorrei dire. Vabbè, ma a me non va mica che si immagino i miei figli potenziali, eh? È una cosa comprensibile, no? Vabbè, ma sono uova non fecondate, destinate ai negozi. Stai tranquillo, Pollo. Nessun figlio tuo è stato sacrificato. Quindi tranquillo. Allora adesso siamo pronti, andiamo. Dove si va, Pollo? Sei tu che dici dove? Sempre al dove? Parco, no? Al parco. C'è un parco qui in fabbrica? Eh sì, c'è il parco dei tossici. Ma come il parco dei tossici? Bruttissimo. Non mi va bene? No. Eh no, allora, così o niente. Qui siamo in una fabbrica di polli, eh. Mica in Umbria. Parco cosa c'entra tossici? L'Umbria? Sì, lì ci sono i prati. Ma tu vieni così senza cestino, Pollo? Senza uova sode? Ma io mangio quello che trovo, no? Vabbè, sì. Ma se non trovi niente? Vabbè, ma tanto la porcettina e la fame la calmo con quella, no? La vita è dura, ti fa paura, alla mattina, paroxetina, inibitore, selettivo, della ricaptazione, della serotonina, paroxetina. La fabbrica di polli. Che ne dite? Bello, no? Tra una siringa e l'altra ci si può anche sedere. Comunque. Vabbè, ma questo è un parco strano, eh? E questo è un parco che si è fermato agli anni 70. Un parco in cui il tempo è fermo agli anni 70, bellissimo. Un museo. Vabbè, allora avete una spiegazione diversa? Perché è pieno di tossici. Cittadini! Tarek, ma cosa fai? Chiedi le 100 lire. Cittadini! Ma guarda che sono fuori corso da 6 o 7 anni. Ma Pollo, ma come? Ma Tarek è diventato tosco. Sì, ma tanto smette quando vuole. No, ma come sarebbe? Come? Vabbè, l'ha detto lui. Sì. Smette quando vuoi. Cittadini. Vabbè, ma la tossicodipendenza gli ha arricchito anche un po' il vocabolario. Sì. Notato, capo. Chissà se su Lancet lo pubblicheranno, che l'eroina guarisce dall'afasia ai pulcini minus abens. È una buona domanda, non so neanche che cos'è Lancet. Insider Trading. Finalmente. If you're tired of waiting. Insider Trading. Tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare. Get your Insider Trading. Insider Trading. Ma cosa vuoi? Ora sono in un periodo un po'... Ho chiesto un silenzio. Abbiamo fatto i sorci. Ieri ho visto anche Luna Rossa. Si combina una seratina, e giù a ridere a fare gestacci, aiuto, pronto? No, senti, sta conversazione è surreale, non... insider trading. No, i bongoloidi no, eh. Beh sì, capo, tu vuoi fare il picnic al parco? Allora devi sorbirti anche i bongolodi, quelli ci sono sempre. Ma no, ma preferivo starmene nel reparto vaiolo. Lì trasmettono albinoni, Beethoven, così rilassano le galline. Qui invece ci sono i fricchettoni che rompono i maroni con i loro bonghi, i bongoloidi. Panino. Ma quale panino? Aspetta, ah vabbè, vabbè, comunque non le ho 100 lire, Tarek. Però ho un uovo sodo, lo vuoi? Vuoi, Tarek, no, Non ti azzardare a mangiare l'uovo sodo, E Polly non mangia mica uovo. Ma dai, ci mancherebbe altro. Sì. Già mi sei diventato tossico così sotto gli occhi. Direttamente da ciula a tossico. Vabbè, ma è sempre così, Pollo. Non è che si passa da brillanti e intelligenti a tossici. Di solito il passaggio è da ciula a tossico, quindi non c'è da stupirsi. Però Pollo, dai, ma scusa Pollo, non ti preoccupi proprio per niente per Tarek. Vai in giro a chiedere soldi, guarda, trema, si gratta, è uno spettacolo deprimente. Ma no, ha detto che smette quando vuole. Ma cosa vuol dire, Pollo? Lo dicono tutti da sempre di poter smettere quando vogliono, e poi non è vero. Vabbè, ma se lo dice lui, perché non devo crederlo? Io gli dico, Tarek, guarda che ti fa male, mettila con l'eroina che ti rimbambisce. E poi lui mi dice, intanto smetto quando voglio. Avete sentito anche voi, no? Sì, vabbè, ma se non vuole mai smettere, come la mettiamo? Allora lui può fare quello che vuole, L'importante è che non chieda soldi a me, se no mi viene lo sbattimento. Ah, beh, solo se ti chiede i soldi. Se chiede i soldi vado in sbattimento duro, cittadino. Che sbattimento! Il divertimento è uno sbattimento. Ed il talento è uno sbattimento. È il talento. L'allenamento è uno sbattimento. Allenamento no, Ogni momento è uno sbattimento. Il giuramento è uno sbattimento. No, io no, Su con il mento è uno sbattimento. Ma quale mento? Esser contento è uno sbattimento. Contento io. Il mio Nintendo è uno sbattimento. Il tuo Nintendo. Vivo il mio tempo di grande fermento. Che gran sbattimento la vita mi dà. Mi dà, mi dà. Sbattimenta. Sbattimento, Polli. Però scusa, Pollo, hai promesso allo zio di Tarek di occuparti di lui. Finora l'hai sempre fatto, usando un po' troppo spesso la roncola, però l'hai fatto. Adesso che magari due roncolate gli farebbero bene, invece dici che lui può fare quello che vuole, che può smettere quando vuole perché lo dice lui, ma insomma non trovi che sia tutto sbagliato? No, vabbè, ma scusate, libero arbitrio non vi dice niente. Vabbè, adesso... Come no, libero arbitrio. Ecco, allora ho detto tutto. Sei vendicativo come il dio dell'Antico Testamento. Vendicativo e indifferente. Con la scusa del libero arbitrio, egli ha condannato gli uomini a essere burattini tragici sul palcoscenico del mondo. E così tu condanni Tarek a essere un burattino tragico. Guardalo, scavato, ridotto in schiavitù dalla droga. La droga. Ciondola come uno studente pugliese del Dams a Bologna dopo le 11 di sera. Gli manca il cane e poi ha tutto. Gli manca anche il tavernello. Ma Pollo, se non dai tu due roncolate a Tarek, gliele do io, Ma la roncola non ho mica portata. Ma insomma. Qui non dovevamo fare un picnic. E invece stiamo qui a perdere tempo con i tossici. Ma è Tarek. Ma insomma. Ma se avessi saputo che non sapevate comportarvi con i tossici, e mica vi portavo qui, no? Ma perché? Sentiamo, come ci si comporta con i tossici? Ma si ignorano. Ma questo non è un tossico. È Tarek. Vabbè, io lo ignoro, no? No, perché lui, se lo ignori, smetti di rompere le palle, E tu puoi farti il tuo bel picnic come quelli che vendono le rose, no? I vari Ganesh che trovi dappertutto. Come Ganesh? Ma come indiani, sì. E quelli lì, guarda, che se tu li ignori ti lasciano stare. Ma se incroci lo sguardo, e allora è finita. Signor? No? Signor? Sì? Vuole rosa? Ma scusi, signor? Sono da solo, cosa me ne faccio di una rosa adesso? Rosa? È mezzanotte, signor. Non so. Se non vendo rose, boss mafia indiana ammazza me, signor. Vabbè, dai, pazienza, non sarò mica io che ti salvo la vita comprandoti le rose, dai. Sì, signor, sì, come? Signor, prendono me e mettono in tritacarne, signor. No, signor, compra la rosa, signor. Il tritacarne, signor. È morto. Cosa succederà adesso? Come verrà affrontato l'annoso problema della tossicodipendenza tra i giovani polli scellerati della fabbrica? Tolleranza zero o carità cristiana? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo incalcolabile allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non muore...